Allora parlo con la zanzara, Radio 24. Ciao Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non devo ascoltare la zanzara, non devo ascoltare la zanzara, non devo ascoltare la zanzara, non devo ascoltare la zanzara, non devo ascoltare la zanzara, non ce la faccio. Cruciani, Parenzo, dopo aver studiato un anno in nazioni diverse, io e il mio migliore amico siamo di nuovo insieme, in macchina. Due giovani ingegneri, 25 anni. La gente ci chiede, ma quanto è diverso studiare all'estero, stare in Italia? Crucia, non cambia un cazzo. 18:30, tutti sintonizzati sulla zanzara e siamo al top! Caro Parenzo, giovani! Giovani, giovani che ascoltano questa trasmissione, sempre più giovani. Ieri ero nella tua città, a Padova. Ottimo. Nella tua città, a Padova. Alla Babele, lì alla Babele, esatto. Di Vittorio. Lo sai che c'erano... Ma lì non c'era nessuno, mi ha detto. Ma vai a fare in culo, ma che m'ha detto? Sei impazzito? Ho letto sui giornali oggi. Ma non c'era niente, appunto, sui giornali non c'era niente. Ma che c'entra, i giornali non seguono, no, questi eventi. No, che le polemiche, ho letto polemiche che lui è molto incazzato con l'amministrazione comunale. Ma che me ne frega, che ne so com'è andato il resto. Non lo so, non mi interessa. Ti dico che c'erano un sacco di giovani che sì? ti cercavano, va bene, anche, allora. ti cercavano. Ma erano miserabili o persone per bene? Credo persone per bene, ma io non faccio distinzioni, come sai. Tra gli ascoltatori della zanzara non faccio distinzioni, tu invece fai molte distinzioni. Beh, fai devo, molte distinzioni. Per esempio, tra un Lennox Ferrone, che so che vuoi, quel fascista nazista, anzi, bravo, direi. Domani pubblicherò su Twitter la denuncia fatta nei suoi confronti. Cioè, addirittura tu vuoi portare questo signore, che magari fra poco sentiremo che cosa ha detto, tanto sì, per un po' per... Ma una denuncia molto, molto circostanziata, cioè, peraltro. Tu vuoi portare in tribunale un signore intervenuto alla zanzara che ha dichiarato di essere apertamente simpatizzante del fascismo e del nazismo. Sì, e poi per minacce l'ho denunciato. Quello ovviamente. è buono. Nonché ospite fisso di Radio Padania, ricordiamolo sempre. Sì, questo non mi interessa niente. Vabbè, no, questo è importante, importante. Allora, la notizia è questa: Parenzo domani annuncerà Urbi e Torbi. No, la pubblico, quindi non sì, c'è problema. Annuncerà Urbi e Torbi, appunto, che vuoi portare in tribunale il signor Lennox Ferrone. Sì, e il ricavato della querela verrà devoluto interamente all'Opera Nomadi. No, come all'Opera Nomadi? Veramente? Il ricavato, cioè, il ricavato della querela per diffamazione. Vincerai sicuramente, naturalmente. No? Mi pare che gli estremi ci siano. La parte penale... Non lo so, deciderà il giudice. Sulla parte del risarcimento civile, il ricavato andrà devoluto interamente all'Opera Nomadi. All'Opera Nomadi. Sì. Lennox Ferrone. Sentite le evoluzioni, le novità. Da Lennox Ferrone ho scoperto che il signor Ferrone porta una svastica tatuata sul petto. Ma quello può fare quello che vuole, può tatuarsi quello che vuole. Una svastica anche una minchia secca può mettere, che è uguale alla svastica. Può far tatuarsi quello che vuole. Bella questa, io no. Parenzo, due punti. La svastica è come la minchia secca. Beh, sì, no, minchia secca è meglio. Secca più nobile, sì, è più nobile sicuramente, non perché danni, si usa, non ha fatto esatto, danni, esattamente. Ma uno sul proprio corpo a me non interessa cosa, uno può fare quello che vuole, non mi interessa. Beh, sì, non è bello però, tatuarsi non la svastica. Lì a... Non sono lì a questionare quello io di quel signore lì. Ferrone, tatuato con la svastica, ma quello penso che ci siano. Sai che vorrei conoscere le persone che si tatuano delle svastiche sul petto? Sarebbe curioso, eh? E alcune sono ricoverate negli ex ospedali psichiatrici giudiziari, sono stati messi per infermità mentale, insomma, sono sottoposti al TSO. Hai detto che bisogna trarre degli insegnamenti che ci ha lasciato, bisogna apprendere da alcuni insegnamenti che ci hanno lasciato il Führer e Mussolini. Com'è possibile? Sì, certo. Cioè, che cosa ci ha lasciato di buono il Führer? Scusa, se che cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato che dobbiamo mantenere il nostro paese pulito. Ci ha lasciato che bisogna aiutare prima chi appartiene alla propria terra e poi magari dare una mano agli altri se avanti. Cioè, prima la razza ariana, diceva Hitler in realtà. No, Hitler diceva prima i tedeschi. Prima i tedeschi. E poi ma insomma, che è stato dopo si avanza qualcosa. Ragazzi, adesso non dovete però fare confusione, eh. Io non è che lo appoggiavo in queste cose. Qualcuno dice, ma tu eri così. È una tecnica, cari amici miei, l'avete capito, no? Cioè, adesso non è che potete pensare, io sono un personaggio bizzarro, un personaggio strano, anche sui generis. Cioè, però non è che posso appoggiare queste robe qui, eh. Questo sia chiaro, non l'ho mai appoggiata né mai l'appoggerò. Né soprattutto le... Certo, per me hanno diritto, come dire, di essere anche espresse. Poi ognuno può fare le querelle che vuole, se Parenzo vuole dipende. Guardare. No, secondo me uno che si professa hitleriano lo può anche fare. Cioè, in America esiste il Ku Klux Klan che Ma in America, io dico, a legislazione vigente. Ah, tu in Italia dici. A legge vigente in Italia non lo può fare. Ma perché... senti che cosa ha detto l'altro giorno contro di noi, senti. Ho ribadito come sempre, insomma, come quei due individui si aspettano sempre, insomma, dalle Nox Ferrone, perché insomma alzano, fanno anche bene, lo fanno bene il loro lavoro, perché giustamente ormai non c'è più nessuno che ascolta la Zanzara, quindi grazie alle Nox Ferrone, insomma, alzano gli ascolti, si alza l'asticella, è giusto che sia così, anche un metodo di comunicazione, un metodo di sfruttare, diciamo, un personaggio. Ah, però senti, se l'ultima riserva sei tu, ci possiamo pure andare a sotterrare per terra, sottoterra, anzi no, mamma per terra. Mia. Caro Ferrone che parla anche poi di Zeccherossi, ma questo lo sentiremo più avanti. Andiamo a cose più serie, Parenzo, adesso non possiamo. Ho voluto iniziare con Lennox Ferrone semplicemente perché mi divertiva, è un personaggio anche divertente a modo suo. Allora, cosa succede in Calabria? Ma cosa vogliamo raccontare se no la storia del grande Urjan Chakra? No, per favore, non mi io non sono Urjan nemmeno... Chakra. Sai che non ho... Chakra, no, un imprenditore albanese, poi te la racconterò nel corso della serata. Bravo, sì, raccontamela dopo. È una sì. grande storia questa. Una grande storia di integrazione, no? Bellissima, imprenditore albanese arrivato qui. Te la racconto dopo, Urjan Chakra. Grande, il fondatore dell'impresa Ingenius, un genio, arrivato clandestino in Italia all'età di 17 anni, voleva andare a Londra e invece è riuscito a mettere qui in piedi in Italia una grande startup che oggi vale 100 milioni di euro. Ottimo. E dove cazzo è la Lega? La storia di Chakra albanese. Basta! È in Italia da clandestino è arrivato. Ma è uno che lavora. Ha creato una startup da posti di lavoro a più di 40 italiani. Basta! Tu dici la Lega non ha mai dato posti di lavoro a nessuno se non coi soldi nostri, dici. A nessuno! A Lennox da posti di lavoro. Basta! Fa parlare quel miserabile lì. Chakra, un imprenditore, startup, 100 milioni di euro vale la sua azienda. È arrivato clandestino, cavolo, clandestino! Vabbè, calma. Calma. Allora, la questione è molto semplice in teoria. Cioè, un prete vuole fare funerali pubblici e il questore dice no, i funerali pubblici non vanno fatti perché il morto è uno che appartiene all'andrangheta, alla mafia. Dunque c'è un conflitto. Un prete che ha Platì, conoscete Platì, no? Cioè, un paese, insomma... Platini conosco. Tu Platini. Platì è quel posto dove ogni tanto i cartelli stradali erano sempre bucati. Chissà perché. Sì. Perché i cartelli stradali... Un segno di amicizia, come nel Far West. Perché erano sempre bucati questi cartelli stradali? Bah, come nel film lo chiamavano Trinità, cosa, uguale. Una cosa incredibile. Vedevo sempre questi cartelli bucati, un segno di... Arrivavano lì col mito e facevano... Questo è il territorio nostro, capito? È proprio un segnale chiaro. Platì con tutti i cartelli bucati. Vabbè, insomma, che succede? Questo prete, che si chiama come me Don Giuseppe, dice: il questore non può immischiarsi nei fatti della chiesa. Se io voglio fare un funerale al boss mafioso morto due giorni fa a 54 anni, il clan, lo conoscete forse, il clan dei, com'è che si chiama? Barbaro, clan dei Barbaro. Andate a vedere così, fate su Google, clan Barbaro, e leggete, non c'è bisogno che ve lo dico io, tutto quello che hanno fatto questi signori. Questo tizio è stato riconosciuto come affiliato al clan Barbaro, 5 anni di galera per associazione mafiosa. Non sono dei santarellini, come dire, Parenzo, no? Cioè, non sono dei benefattori dell'umanità, sono dei benefattori per la loro famiglia, per il loro clan. No, giusto o sbagliato? Certo. Ora, il prete dice invece che i funerali, se uno ha diritto a essere sepolto, a essere anche omaggiato dai cittadini, dai suoi conoscenti, dai suoi parenti, eccetera, eccetera, ci dovrebbero essere dei funerali allargati. Non lo so, non so né si è pentito né si è affiliato alla mafia, so solamente che è un uomo e che ha diritto a una sepoltura dignitosa, secondo la fede, le abitudini, la cultura dei suoi familiari. E questi sono cristiani cattolici che hanno tutto il diritto di esigere il funerale in chiesa. Sì, però sì, in linea di principio posso anche essere d'accordo su questo, sulla libertà, no? Sulla libertà assoluta, però non è che sia la Chiesa non è un posto extraterritoriale, cioè non è che il prete fa i cazzi suoi in qualsiasi momento. Se là si consuma un delitto, per esempio, faccio un esempio, non è che non può entrare la forza pubblica nella Chiesa, cioè se il questore dice tu in Chiesa... Aspetta, è vero che in alcune Chiese non può entrare perché c'è la extraterritorialità. Ma figurati, cioè, io vedo un criminale dentro la Chiesa. Ti assicuro che alcune Chiese in Italia sono extraterritoriali perché di proprietà perché sotto il dominio del Vaticano. Poi si potrebbe anche dire un'altra cosa, che più i funerali sono ad esempio pubblici... se tu commetti un delitto e ti rifugi alla Basilica del Santo a Padova, ad esempio, la Basilica del Santo è extraterritoriale, quindi teoricamente come fosse uno stato estero non ci puoi andare. Ha fatto bene sto prete o no a fottersene in parte? Assolutamente no, di quello che ha deciso il questore. Ma è una vergogna, assolutamente no, secondo me. Perché poi lui in realtà ha allargato la cerimonia agli altri, cioè ha fatto i funerali alle 6 del mattino come prescriveva il questore, non ha fatto il corteo, però poi ha fatto i funerali, diciamo, pubblici. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Caro Parenzo, quanto mi piacciono queste giornate dove c'è molta carne al fuoco, moltissima carne al fuoco. Numeri di telefono innanzitutto, la signora dei numeri di telefono, subito. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Guarda, c'è un tizio che mi scrive, mi dice: immondi razzisti, non fate altro che denigrare il meridione. Scusa, amico mio, tu che mi scrivi questo bellissimo messaggio al numero che abbiamo appena sentito, a uno dei numeri che abbiamo appena sentito, ma non è colpa mia se queste cose avvengono a Platì, Calabria, e io potrei aggiungere anche, se volessi scherzare, se volessi ridere, Calabria Saudita. Non è colpa mia se queste cose avvengono a Platì, se i funerali di questo signore avvengono a Platì e se il questore voleva fare i funerali privatissimi alle 6 di mattina e il prete invece si inventa di farli pubblici perché ognuno deve avere il funerale che vuole con tutti gli amici, con tutti i parenti, eccetera eccetera. Non è colpa mia. Si potrebbe anche dire, David, che i funerali pubblici servono anche, possono servire anche a individuare anche gli amici degli ndranghetisti, dei mafiosi, No, secondo me non no. Serve, io sono dici, non serve. Non serve assolutamente. Io sono contro i funerali pubblici, esibizione di potere, e invece no, il potere. Ma no, più che altro è un prete, il prete. Sì, tra l'altro, ecco, questo è anche brutto, perché il prete, la Chiesa è, come dire, un messaggio universale che molti la guardano come luogo, no? Luogo che pulisce da ogni peccato. Amico mio, non è un bel messaggio. In paesini come questo, se il signore qualunque di Platì vede che anche la Chiesa fa fare il funerale e perdona questi maledetti mafiosi ndranghetisti, ma che segnale è alle persone? Non è che c'è il perdono in questo caso, cioè semplicemente... No, ma dovrebbero fare funerali privati, però non davanti a tutti, sembra un modo per legittimarli, no? Allora, una figuraccia ha fatto invece il sottosegretario alla difesa, caro Parenzo, alle Iene, il signor Domenico Rossi, a proposito di politici, non ci occupiamo anche più di politici, però in questo caso ce ne occupiamo. Un signore che si chiama Domenico Rossi, sottosegretario di un partito che non esiste praticamente, no? Com'è che si chiama, tu che sei informatissimo? Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa di... Bah, mi pare, aspetta che avevo la sigla qui. Democrazia solidale trattino centro democratico, cioè DES-CD. Non mi dire niente, guarda, una derivazione praticamente di sciolta civica. Beh, Domenico Rossi, sottosegretario generale, sentite che figuraccia le Iene. Come sapete, Renzi ha detto che i sottosegretari non devono avere l'auto blu, cioè non devono più utilizzare l'auto blu, una cosa detta praticamente agli inizi del governo Renzi, no, se non sbaglio, quasi agli inizi del governo Renzi. Le Iene hanno scoperto che in realtà questo tizio utilizza l'auto blu. Ogni ministero al massimo 5 auto blu e i sottosegretari devono andare al lavoro a piedi o con mezzi pubblici. Lei che ne pensa? È giusto o no? È giustissimo. Lei è d'accordo con Renzi? Peccato che però l'unico tratto che lei fa a piedi è dal portone di casa sua all'auto blu che la sta aspettando là. È calla. L'informazione deve essere corretta. Ma sottosegretario, c'è l'auto blu, è calla. Il decreto prevede che la macchina blu... Non sentiamo che si inventa. No, non mi invento nulla. No. Non sto andando al posto di lavoro, ma sto andando alla Camera per rispondere a delle interrogazioni parlamentari. E che fanno parte del suo lavoro, immagino. Fanno parte del mio lavoro. E infatti lei sta andando al lavoro con l'auto blu. Esatto. Se ho sbagliato, ma ho sbagliato, diciamo così, onestamente, in buona fede. Dimostriamo che anche un sottosegretario la mattina va al lavoro coi mezzi pubblici. Guardi, qua giù c'è stata fermata. Vogliamo andare insieme? La ringrazio. Sto andando alla Camera dei Deputati e vado con la macchina. Anche perché, onestamente, ho cartelle piene di interrogazioni parlamentari che devo andare a discutere. Perché io non posso andare in autobus con la cartella? No, non posso mettermi in autobus a leggere o a studiare interrogazioni parlamentari sulla Camera dei Deputati. Lui non può. Allora, ho fatto ascoltare questa roba prima a Davide e mi ha detto: ma è giusto che uno le interrogazioni parlamentari non le possa leggere in autobus. Davide, è pieno di funzionari, sì, perché... è pieno di funzionari dei ministeri, chiunque, cittadini comuni che vanno in autobus con pacchi così e si leggono due foglietti, dai, su. Vabbè, però deve finire questa cosa qui, di questa che pensi che la spending review passi attraverso l'eliminazione. Lascia perdere, sono ste parole. La riduzione della spesa passa attraverso le macchine blu di questi poveracci. Ma scusa, Renzi ha detto una cosa. I sottosegretari non devono più utilizzare l'auto blu. E questo qua, che pure fa il generale. Ma costa di più l'aereo suo quello pure, o certo, l'auto blu? Dai ragazzi, sicuramente su, costa più. Basta con sta demagogia anche tu, grillina. Oh, finalmente notizie buone. Mi scrive Ujan Sharka, il grande imprenditore Chakra. Ah no, scusami, Chakra. T'ha scritto Sharka, non Chakra. Ciao David, mi raccomando il mio cognome. Dice, non pensavo che ascoltasse. Ma certo. Cognome Sharka. Sharka. Allora? Ulian, avanti tutta! I Genius, grande startup arrivato clandestino in Italia all'età di 17 anni, ha subito la guerra d'Albania, è scappato e ha creato lavoro. Lega, dove sei? Lega, dove sei? Scusate, un attacco, perché in genere sono anche composto. Allora ragazzi, c'è un'altra roba e riguarda, anzi, due cose. La prima è questa: vi ricordate quella professoressa di Venezia di cui abbiamo parlato venerdì? Quella che ha scritto le seguenti cose: e poi ho torto quando dico che bisogna eliminare anche i bambini dei musulmani, tanto sono tutti futuri delinquenti? Vi odio, maledetti, vi brucerei vivi. Un altro salvataggio, ma non potevate lasciarli morire? Riferendosi ai migranti. Almeno morissero tutti. Pazzesco. Sempre rivolto ai fedeli musulmani. Un po' per riprendere il discorso albanese che stai facendo. Allora, questa qua, docente di inglese al liceo Marco Polo di Venezia. Per la normativa italiana non si può cacciare, o uno potrebbe dire la libertà di espressione. In questo caso però, ragazzi, la libertà di espressione è un cazzo, perché questa qua è un po' dipendente pubblico, anzi è dipendente pubblico. E poi soprattutto qui non è che c'è libertà di espressione, qui si augura la morte di alcune persone. Qui non è dichiararsi fascisti, nazisti, eccetera. Appunto. Eccetera. Qui dice muoiano i profughi e i loro bambini. Sentite cosa dice. Ho già chiesto scusa, Ha chiesto scusa a chi? Alla dirigente del liceo Polo, ok? Ho già fatto le mie scuse. E c'erano anche sul giornale che io avevo fatto le mie scuse. Cioè, lei veramente insegna queste cose ai suoi ragazzi? Non insegno queste cose ai miei ragazzi, insegno la lingua inglese. Perché ha detto queste cose, signora? Non comment, basta, ho già commentato. Cioè, da segnalare anche che dice, da professoressa di inglese, non comment, amico mio. Non comment. Sì, ho notato questo. Non comment. Allora io dico, vaffanculo, perché se tu sei professoressa di inglese e dici che non insegni quelle cose là che hai scritte ai tuoi allievi, almeno la pronuncia deve essere corretta. Ma non solo la pronuncia in questo caso, è proprio la dizione. Cioè, io che non sono non mi picco di essere esperto di inglese, non è che dico non comment, dico no comment, forse perché è una cosa che conosco meglio. No comment, no non comment, professoressa di inglese del cazzo. Comunque pare che sia sospesa. Ti segnalo un'altra cosa molto divertente della campagna per il sì e per il no, che per che te è noiosissima, quella sul referendum. Ancora è noiosa, sì. Manifesto di Forza Nuova. Forza Nuova dice il 4 dicembre vota no. E uno dice sì, normale. La motivazione: ferma la deriva autoritaria. Ma vabbè, sì, certo. Ma ragazzi miei, ma di che parlate? Tu hai finito un mondo. Parlate, è tutto finito qua. Pure i fascisti ormai vogliono la democrazia, ma di che stiamo parlando? Ferma la deriva autoritaria. Ma ragazzi, Forza Nuova! Ferma la deriva autoritaria. Non c'è più religione. Non c'è più, ma non si capisce più niente. Il sì, il no, il forse. Forza Nuova che dice vota no. E uno dice vabbè, d'accordo, sì, Forza sì, vabbè, Nuova contro il governo, Renzi, poteri forti. Ferma cose, la deriva autoritaria. Ma siete a favore della deriva autoritaria, ma voi? Ma siete autoritari. Come ferma la deriva autoritaria? Ma vaffanculo. Il fidanzato mi ha costretto a sentirvi per un'ora e mezza e non ho fatto altro oggi, ma mi fate schifo! Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. La Zanzara. Cruciani, ma sei impazzito? Che cosa schiacci le cimici? Cosa schiacci le cimici che puzzano di morte? Le cimici vanno prese delicatamente con un fazzolettino di carta o con della carta igienica, prese, appallottolate, buttate nel cesso e poi tirare qua. Non c'è alternativa a questo, non c'è, altrimenti ti resta l'olezzo per tutta la casa. Cruciani, siamo seri. Qui da noi c'è una regola, una segretaria prima di tutto deve essere figa, per tre motivi. Uno, le brutte portano sfiga. Due, costano uguali. Tre, una bella può diventare brava, una brutta non diventa bella. Questa è un po' cruda come cosa, caro Parenzo, questa è un po' cruda, legata sempre alla storia della ragazza di 140 kg sì, che la settimana scorsa è stata nostra ospite, che pare abbia trovato anche qualche piccolo spiraglio lavorativo. Di questo male, siamo naturalmente contenti, non perché siamo buonisti, non perché siamo, come dire, buoni per definizione, almeno io non lo sono. Se uno trova lavoro, se uno sei contento anche tu. Va bene, anche se devo dirti la verità, c'è in questo caso una sorta di razzismo al contrario. Perché in realtà con questa visibilità che lei si è data attraverso una storia un po' finta di finta discriminazione, qualcuno si è messo in moto. In un altro caso non si sarebbe messo in moto. Dunque lei ha preso il posto, ha occupato il posto che magari occuperà il posto no, che qualcuno avrebbe preso. Come no, certo. Ragazzi, comunque vi do una notizia. Ci sta fottendo anche la Spagna. Ci sta fregando la grande anche la Spagna. Vi dico alcune cifre. È un'inchiesta che non ho fatto io, per adesso non è una grande inchiesta della Zanzara, ma un quotidiano molto conosciuto che si chiama El Mundo, conosci? Che significa certo, il mondo, per chi certo, lo anche un giornale progressista. No, anche, no, ma che dice? Al contrario, quello è il País. Ah, il País. El Mundo vero, è sempre bravo, stato sì, il giornale, sì, diciamo, conservatore, più o meno, diciamo così. Allora, in Spagna esistono 1500 bordelli, 45.000 prostitute, 2 miliardi di euro di incasso dalla prostituzione. Sono numeri che dovrebbero farti contento, anche tu sei a favore della legalizzazione della prostituzione. Lo zero, o ci hai ripensato? No, non credo che ci hai ripensato. No, assolutamente. Zero, cioè non ne fai una battaglia campale, diciamo. No, una battaglia campale. Decisamente. 0,35% del PIL nazionale spagnolo, che non sono proprio bruscolini, cioè non sono spiccioli, no? Certo, non è che rimetti a posto tutto. Chi si illude... Qualche volta, per esempio, l'ha detto Salvini, rimettiamo a posto il debito pubblico. No, cioè, non è che legalizzando la prostituzione risolvi i problemi dell'Italia. Però un piccolo tassello si mette soprattutto a livello di ordine. Ora, anche la Spagna ci sta fregando. Cioè, è una cosa incredibile. Sta diventando una delle mete più ambite per il sesso, pare. È terza o quarta dopo la Thailandia, sai, queste cose qui. Sì, sì, assolutamente. Sono cifre recenti, credo che la dopo la Thailandia. Sì, dopo la Thailandia, dopo un altro paese, adesso non mi ricordo quale, sta diventando una delle mete preferite per il sesso. Perché una cosa fondamentale, appena tu vai dal confine per andare a Barcellona, no? Dalla Francia, Montpellier, fai il confine e c'è un posto che si chiama La Jonquera, una cosa di questo tipo. E lì c'è uno dei più grandi bordelli d'Europa con 200 prostitute dentro. Perché non fai una guida come c'è la guida delle grandi? La voleva fare il mitico Pernat, ma la vorrei fare, sì, sul serio, ci ho pensato anche oggi, ma io penso a mille cose e non faccio mai nulla. Più qualificato a fare una bella guida con Mi segnalano i che bordelli, a me, lo sai che mi piace il titolo, i Putti Club. Bellissimo, Putti Club. Anche, perfetto, certo. C'è un altro che si è molto quotato sempre in questa cosa, che è il Flowers di Las Rozas. Comunque la cosa incredibile e molto chiara è questa, che noi siamo in presenza di una fuga dei cervelli spesso dall'Italia. Abbiamo anche la fuga dei puttanieri, però credo che sia più grave, è più grave la fuga dei puttanieri, perché la fuga dei puttanieri porta con sé i quattrini. Cioè sono i puttanieri col portafoglio gonfio. Io non capisco perché dobbiamo far arricchire magari imprenditori, spesso sono anche italiani in alcuni posti, imprenditori spagnoli, imprenditori sloveni, imprenditori austriaci, imprenditori svizzeri, eccetera, eccetera, tedeschi, eccetera, eccetera. Solo noi coglioni non riusciamo a approfittare di questo mercato, che potrà essere un mercato ripugnante, potrà essere un mercato che fa schifo, potrà essere un mercato schifoso, il mercato del sesso, dei corpi, eccetera, ma è un mercato che, ripeto, in Spagna porta 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro. Vabbè. Ho fatto il mio pippone di oggi, Davide. Giusto, giusto. Il tuo peana, ha detto. No, è mio peana la prostituzione legale, punto. Perché quando leggo dei dati, come lo tu dico hai fatto. Per quei miserabili allo scorso, il termine peana non è un termine volgare, è un termine aulico. Peana, perché magari sei qualcuno di quelli. Che poi il telefono dice, ho detto peana perché c'è il pene. No, non c'entra niente. Peana è un'altra parola. Googlatela. Allora, ragazzi, c'è una cosa molto molto grave che sta succedendo. Tu sarai contento, sì. Davide, purtroppo sarai contento. Purtroppo sarai contento. Allora, ti ricordi il consigliere della Lega Nord a Trieste, Tujac, no? Che ha detto Maometto, pedofilo. Assolutamente. La settimana scorsa, ti ricordi tutto, le polemiche, tu incazzato, quel signore la bestemmia. Che gioca con... Sì, sì, esatto. Quel signore che gioca con... Non ripetiamo le cose che abbiamo già detto. Gioca con Dio per uso politico, ecco. Però, se questo fa. Ricordiamo però quello che disse, che è importante ricordarlo sempre. Dimmi, era un pedofilo Maometto, ha sposato la bambina di 6 anni. Siamo questo per. Cioè, una volta si usava così, mi spiace, ma adesso sarebbe pedofilia. Ho capito, una volta si usava così. Allora, questo è quello che disse Tujac, consigliere comunale della Lega Nord. Ora, discussioni le abbiamo già fatte, non le voglio riaprire. Però, caro amico David, è stato indagato. È stato indagato per vilipendio alla religione. E te l'ho detto, l'avevo detto. Però non va bene, questo non va bene, dai. L'avevo detto. Cioè, tu non puoi avallare una cosa di questo tipo, dai. Non puoi avallare una cosa di questo tipo. Il vilipendio alla religione già dovrebbe essere abolito come reato. Cosa vuol dire? Non puoi avallare. Ma non va bene questa cosa qua, che viene messo sotto accusa. Ma questa è un'altra discussione. Abolito, non abolito, va bene. Ha violato una legge. Non lo so, quello lo vedremo. Probabilmente. Ha offeso 1 milione di potenziali persone. Sì, e allora amico mio, ti prendi una piccola indagine, andrai in procura e ripeterai queste fesserie che hai detto, oppure chiederai scusa e verrà tutto archiviato. No, ragazzi, no, dai, vilipendio della religione, indagine, carte buttate. Ha offeso un milione. Ma no, ma persone. Ragazzi, ma non è questo un secondo milione. Te naturalmente, ma l'inchiesta, lascia questo perdere la questione sicuro. Politica, ma l'inchiesta per vilipendio della religione, però, il codice mio, penale per questo, dai. Ma se c'è una legge dello Stato, vediamo di farla rispettare, oppure aboliamola, cambiamola. Tu sei per cambiare la legge, assolutamente, benissimo. Assolutamente. Va bene, allora se facciamo la libertà di insulto alle religioni, la libertà di insulto a qualunque cosa e basta. C'è un'altra cosa prima di iniziare con le telefonate, perché questa sera fino adesso non l'abbiamo ancora prese. Berlusconi, tu hai detto giustamente che Forza Nuova dice no, pericolo della dittatura, pericolo dell'autoritarismo. Sì, no, rischio autoritario. Ed è anche ridicolo. Forza Nuova, però rischio autoritario. Però anche detto da Berlusconi è ridicolo. Anche detto da Berlusca, perché la sua campagna, la campagna di Berlusca, è tutta improntata, per quanta campagna elettorale farà sul referendum, è tutta improntata a rischio dittatura. Ora. Va bene Forza Nuova, non è la stessa cosa di Berlusconi. Però, caro amico Berlusconi, già te l'ho detto venerdì, tu hai passato tutta la vita politica sognando di essere l'uomo solo al comando. Poi non lo facevi perché sei più democristiano di Mastella. Però la realtà è questa, non puoi adesso dire... Cioè, se l'avesse fatta lui la riforma della Costituzione così com'è, l'avrebbe difesa a spada tratta. Diciamo la verità, diciamola tutta, dai! Votiamo no a questa riforma che non risolverebbe nessuno dei problemi dell'Italia, che non produrrebbe risparmi significativi e che con l'attuale legge elettorale sarebbe anche pericolosa, perché potrebbe dare vita ad una deriva autoritaria, alla dittatura di un uomo solo al comando. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Augusto Monza, vai, Augusto. Buongiorno, niente, volevo... Io buonasera, sono... veramente, comunque va bene lo stesso. Sono... A me non me ne frega niente, per cui... Non era importante, immaginavo di essere così. Volevo, niente, voglio già abbassare la telefonata, il collegamento, guarda. Di già, solo per questo. Ma buonasera, dai, su, comunque Augusto, vai. No, io volevo tranquillo. Soltanto chiedere una cosa, io sono un cardiologo di un grande ospedale della Brianza. Sì, cardiologo, sempre necessari, i cardiologi sono sempre persone importanti. Sempre, no, niente, volevo soltanto dire al dottor Parenzo, porle un problema sì. Che si pone spessissimo, che è quello dei costi che dobbiamo sostenere per... curare tutta questa gente che arriva continuamente, cioè, sulle lei è un cose. Grande cardiologo, un primario di cardiologia? No, lei... no, io non sono primario, sono semplicemente un aiuto. Vabbè, sei un cardiologo che lavora in un ospedale, stai dicendo che... Sto dicendo semplicemente che gli immigrati che arrivano, capito, che gli immigrati che arrivano costano... importantissimo per quanto riguarda la sanità, che viene comunque sostenuto dalle casse dello Stato. Capito, Parenzo? Ci sta dicendo questo signore che è un dipendente dello Stato come cardiologo, ti sta dicendo, dipendente della regione, non so di che cosa, che gli immigrati che arrivano... Aspetta, gli immigrati che arrivano nulla. a frotte in Italia, credo che in Sicilia sono arrivati credo 5.000-6.000 persone negli ultimi giorni, così dicono alcuni dati, hanno un costo per la nostra sanità enorme. Tu ti rendi conto o no di questa cosa qua? Meno male che sia la sanità che interviene. Come meno male? E noi paghiamo? Certamente, ma ci mancherebbe. Certamente noi paghiamo gli extracomunitari che arrivano, noi paghiamo la sanità. Non è che noi paghiamo, io anche pago la sanità per uno a che Mauro è da Manto, cirrosi, esatto, a un matto come quello lì che beve vino tutto il giorno e telefona alle trasmissioni di radio. Io pure pago il suo trattamento sanitario obbligatorio. Io pure pago per quel pazzo di Donato da Varese, anche mi tocca mantenerlo. No, vabbè, io dai, pure non puoi pago paragonare... la sanità per Leone di come si chiama lì? Malox Ferrone lì, quello che quel personaggio nazista. Se io pago nazista. La sanità per Enox Ferrone, preferisco pagare agli extracomunitari. Ma certo, perché tra questi si nasconderà il futuro presidente della Confindustria di domani, tra questi ma si no, siederà no, questo... il futuro presidente no, della Repubblica no, di domani, no, nero, tra questi nero, si siederà no, la prossima, no, il prossimo conduttore no, della Zanzara, no, tra no, questi, no, no, sì, tra questi no, ci non sarà, ce la faccio, non sì, ce la faccio, sì, no, tra non questi ce la faccio, tra faccio questi, non ce la faccio, il prossimo boccia un nero, il prossimo sì, boccia un nero, sì, no, ma un cinese, un senegalese, un albanese, un marocchino, questi sono i nuovi italiani, ragazzi miei. Fermo. Parenzo, ma quanti in forma in questo periodo? David, non cambiare pusher. Tieni quello lì, è quello giusto. Tienilo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Luciani, è ora di finirla di parlare del meteorismo come se fosse una malattia. Io non soffro di meteorismo, io godo di meteorismo. Che gente che abbiamo tirato su, che gente che abbiamo tirato su, caro David. Mamma mia, ma che porcellaia. Ma è brava gente, sono brave persone, sono bravi ragazzi, sono persone a posto, che non fanno male a nessuno. Diciamo, hanno imparato in questi anni a stare attenti anche al loro corpo, a rendersi conto di quello che succede al loro corpo e di renderlo anche esplicito, di raccontarlo, ecco. Di sporcaccioni, in una parola, sporcaccioni, no, in una parola. No. Se tu volessi riassumerci in una parola sola, come le definiresti? Sporcaccioni. Allora, Crozza ci dice che ci sono anche i Masai per il no. Beh, abbiamo detto noi, certo. No, Masai per il sì erano quelli, eh. Ah, ci sono anche per... quelli per il no. In Kenya i Masai testimonia del sì. Ora io mi domando, ma proprio non c'hanno altri problemi, ma sai, no, ma guarda sti quattro, ma sembra normale che si occupino dell'abolizione del CNEL? Non tutti i Masai sono per il sì, C'è anche una minoranza Masai che vota no? è guidata da Perlumumba Bersamba. D'Alema sbrocca per gli agnolotti. Ho visto, ho visto. Diritto, questo animale ha diritto a stare tranquillo, io ho diritto alla mia tranquillità, sto portando a spasso il cane e non posso essere intralciato da voi che non avete rispetto verso le persone. Volevamo sapere degli agnolotti, secondo lei, gli agnolotti dell'ultima cena. Vuole assaggiare. Devo portare a spasseggio il cane. Ah, ok, allora dai. Non vorrei, siccome non vorrei litigare. Col cane o con me? Col cane. Ho detto che non vorrei litigare. No, ma le volevo solo chiedere se era nostalati o no, agnolotti sì o no. E si incazza e butta via questo piatto da Lemone. Vabbè, però abbi pazienza, però. Non è che uno può pretendere, essendo D'Alema, che non si presenti. Va bene, ma che non è, si presenti una grave, telecamera non è sotto un casa. Attentato. No, d'accordo. Ma però... non ho capito, alla terza volta che la gentilissima e simpatica comica non va, peraltro, non va bene che uno vada a fare un piccolo scherzo con gli agnolotti da Lemone. Non c'è dubbio, la terza volta ha buttato gli agnolotti per terra. È un crimine buttare gli agnolotti per terra. Ma no, vai, devi difendere per forza D'Alema, dai, David. No, ha buttato gli agnolotti per terra. Ha fatto una caponata, dai, ha fatto una. Sicuramente non ci ha fatto una bella figura, ma ha fatto male a qualcuno, no. Ha aggredito per fortuna qualcuno, no. Ha scatenato le sue guardie del corpo contro qualcuno, per fortuna no. Per fortuna altri lo fanno. Va bene anche D'Alema che ha fatto questo. Ho buttato per terra sti cavoli di agnolotti, va bene, ok. D'accordo, per carità, ognuno può fare quello che vuole. E ognuno può reagire come vuole, ognuno può dire di no alle interviste. Ha aggredito qualcuno? Per fortuna no. È una semiaggressione. Cioè, perché se tu aggredi agli agnolotti, sì, ho visto il comitato di difesa agnolotti che è intervenuto. Scusa, ma se l'avesse fatto qualcun altro, io sono sicuro che tu avresti detto: buttati per terra gli agnolotti. Ma io difendo le persone, ma non gli oggetti. E ha buttato per terra la ghighina degli agnolotti, va bene? Ha rovesciato un vassoio di agnolotti che glielo stavano tirando in testa. Ma ho capito, ma sei tanto pronto sempre a difendere facciamo un comunicato la libertà stampa, di satira. Ma libertà... non c'è. Ma è ovvio che ha fatto male. Dopodiché non ha aggredito una persona, per fortuna. Ci mancherebbe pure. Siccome però quando succede spesso nessuno dice niente. Quando vengono aggredite delle persone, le guardie del corpo che spingono i giornalisti. Cioè, qui non è successo nulla di tutto questo. Sono caduti per terra 5 agnolotti. Vogliamo fare un comitato di sostegno agli agnolotti? Vogliamo chiamare Grillo a candidare gli agnolotti dei 5 Stelle? Sei diventato candidiamo pure gli agnolotti difensore dei 5 di D'Alema Stelle. Contro una piccola satira che volevano candidiamo, fare là. Vabbè, candidiamo gli agnolotti, dai, forza, perché così accumulare a Roma, dai, forza. Allora, ma agnolotto. Che c'entra? Gli agnolotti erano portati da una signora, agnoletto, da una ragazza mai, che candidati. Faceva... Sì. Allora candidiamo gli agnolotti. Grave atto contro gli agnolotti. Ma non è grave forza. Atto, chi sta dicendo grave Ricotta atto? E Spinaci, i candidati in consiglio comunale a Roma. Forza, Ricotta e Spinaci con i 5 Stelle forza. Allora, a proposito della questione di Madonna, del Pompino, eccetera, eccetera, c'è stata anche una puntata di Matrix, caro Parenzo, no? E ovviamente, secondo me, incredibilmente, devo dire la verità, ma non perché io sono libertario, non è questo, è perché se tu parli di una cosa, cioè sostanzialmente fanno un pezzo di puntata di Matrix, credo, tutta improntata su questa storia del pompino di Madonna, eccetera, eccetera, no? E, c'era Mughini. E, adesso, amico mio, non mi puoi bippare la parola pompino, capito? Sì. Ma non ha senso, dai, non ha, oggettivamente non ha alcun senso. Cioè, ma che senso ha? Cioè, se fai una puntata su quello, mi devi far sentire quella parola là, o no? Beh, si può intuire, non c'è bisogno. Però devi essere sincero. Avessi fatto tu una puntata alla 7 su questa questione di Madonna? No, non l'avrei fatta. Vabbè, su mettiamo che tu non l'avessi. Non l'avrei fatta con quel taglio, o se l'avessi fatta... Avresti messo la parola pompino. L'avrei probabilmente bippata anch'io, perché in quel contesto, in quella fascia oraria, in quella rete, non ha senso dire quella Matrix, parola. Canale 5, seconda serata, di che parliamo? Cioè, non ne stiamo parlando della prima serata. Ma che vuol dire la parola pompino? È una parola normale? Come lo vuoi chiamare? No, ma fellazzo. No, secondo me c'è contesto. Non riesco contesto. A capire. Non riesco a capire. C'è quale contesto. E contesto. Tu vai a cena della regina d'Inghilterra, no? Se ti invita la regina d'Inghilterra, ma è diverso. E dice: oh, hello, Mr. Cruciani. Veramente new? Io non ti capisco alcuna What's volta. New? Tu lì non è che gli dici: guardi, ho letto sul Daily Mirror che la signora Madonna vuole fare. Non lo diresti, stai sbagliando. Oh, Do you read? Ah, hai letto è... regina. Ma che Matrix ha regina d'Inghilterra? No, che però, le prime serate in televisione però sono, non è neanche sono la Zanzara, capito? Ma allora, cosa ogni c'entra? Cosa al suo contesto, ma lì non lo direbbero mai. Chiama, giustamente lo hanno. Madonna, se vuoi parlare di quello, puoi decidere di non parlarne. Se vuoi parlare di quello, giustamente, devi utilizzare porro, la parola l'ottimo, ma pompino, no, l'ottimo porro, pompino. Giustamente, hai deciso di trattare un caso di costume, però di non essere volgare. Sì. Ecco, tutto ma, qua. Ma perché utilizzare la parola pompino è volgare? Ma dipende in che fascio l'hai. Continuare a dirlo, sì, può essere così. Io Bughino. Nel mio privato lo posso usare tantissimo Bughino. O anche in un bar con quattro amici. Ma pubblicamente ma no. Ma allora non ne parli Bughino. Madonna durante un concerto dice chiaramente: se votate Hillary Clinton io vi faccio un servizio con la bocca. Quindi sono tutti Sì, vabbè, se non lo dice è meglio. Quindi ho detto servizio con la bocca. Va bene. Cioè, capito, addirittura paradossalmente anche Chiambretti non lo dice. Ma cioè, certo, perché invece Mughini sì, anche Chiambretti no. Va bene, ma ci sta nel gioco, questo è giusto, gioco, sì, è giusto è che il conduttore non senti, lo dica. Mughini, senti Mughini, ancora Mughini su questa roba qua, perché c'è anche la parola ingoio che è bippata, senti. No, io non partirei dalla cosa di Madonna, perché la cosa di Madonna è un exploit esibizionistico in cui lei le serve per andare sui giornali, le serve far capire che metà degli americani non vede l'ora di fare quella cosa che lei non vuole nominare con relativo ingoio. Tutto questo non ha niente a che vedere, ma l'italiano è lei l'italiano. Mi vuol far chiudere, scusi, lei mi vuol far chiudere la trasmissione. Lei mi vuol far chiudere la trasmissione. Semmai voglio alzarla, elevarla. Adinolfi? Mario? Mario? Sta respirando, Parenzo, sta respirando. Io respiro. Siamo il top. Siamo il top. La Zanzara. Here we go. Allora, caro Davide, io proverei a chiamare il prete. Il prete, quello quale di Platì. Quello di Platì. Ah, il famoso Platì. Don Giuseppe. Direi Don Giuseppe. Don Giuseppe, ricordiamo che vuole, ha voluto per forza fare dei funerali semipubblici a un 'ndranghetista, un mafioso morto qualche giorno prima, che si chiama Barbaro, del clan Barbaro, del clan Barbaro. Giusto o no fare funerali pubblici ai mafiosi con la presenza del paese mentre sono stati vietati? Pronto? Don Giuseppe, buonasera. Don Giuseppe, buonasera. Buonasera. Lei resiste di fronte al prefetto? Ha resistito di fronte al prefetto o no? Ma ho resistito io, ho ricevuto un'ordinanza del questore, ho fatto tutto quello che lui diceva di fare, naturalmente poi ho preso anche la mia libertà di prete per fare quello che dovevo fare e l'ho fatto. Però tutto. Scusi un attimo Don Giuseppe, la questione è molto semplice, il questore non voleva funerali pubblici e lei in parte ha fatto dei funerali pubblici, cioè dire allora, ha aperto allora, la chiesa, no? Alla famiglia, ai parenti, un momentino, e non un momentino. Un momento, un momento. Il questore non voleva corteo, quindi il questore ha detto che al mattino della domenica io dovevo essere al cimitero alle 6 di mattina, per una piccola celebrazione, cosa che io ho fatto. E poi alle 11 ho celebrato la messa con tutta la comunità, perché quella messa era stato annunciato nei con i manifesti che c'era la messa alle 11. Mi scusi, in questi casi, Parenzo, saluta il parroco innanzitutto. Buonasera, padre. Allora, buonasera. In questi casi, Don Giuseppe, l'autorità pubblica dice qui non si possono fare, diciamo, funerali pubblici, aperti a tutti, perché quello là è un mafioso. Questo è il punto. Lei invece dice, a me non me ne frega niente. Se uno ha diritto ad una giusta sepoltura, come vogliono i suoi familiari, i suoi amici, giusto? Un momento. Il signor questore può comandare per quanto è il suo compito per il corteo in locali interi, in luoghi pubblici, eccetera. In chiesa il comando io. Il questore non può mettere il naso nella chiesa. In chiesa non comando può. Io. In chiesa comando però, io. Profe, scusi. Che io sappia, il questore non può mettersi in una celebrazione, incluso. Si è sbagliato, insomma è una svista. Comunque si è sbagliato dicendo che il prete doveva essere là, non che il prete, ma che si faceva una celebrazione là nel cimitero, perché scusi. Lui non può vincere nessun orario, nessun prete in nessun momento. Questo è giusto, questo è giusto. Signor prete, adesso Signor io prete, ho seguito tutti gli ordini. Signor prete, aspetta. Ripeto. Ho preso la mia autonomia come sì. prete per cioè, celebrare in chiesa quello che dovevo celebrare. Il questore non mi può dire né l'ora, né il giorno, né no. il luogo, e soprattutto non può decidere cosa succede dentro una chiesa e chi entra o chi non entra, giusto? Ma certo. Le vorrei ricordare, signor parroco, poi do la parola a Parenzo che qui sta scaldando i motori, che siamo prete. Però siamo sul territorio italiano qui, siamo nella Repubblica Italiana, non siamo esattamente amico mio, qui non è che comanda il Vaticano, comanda allora, certo, però attento bene, non abbiamo inventato noi questo, siamo partiti da un ricorso scusi. Presentato nel 2010. Vabbè, ma lasciamo No. Se non capiamo questo, però presentato in Campania e che ha avuto la risposta positiva del TAR. Vabbè, signor allora, prete, come l'ha fatto il TAR? Ma non mi citi Campania, il TAR, ma non cita. Ma lei non deve citare il TAR, deve citare la Bibbia. Il TAR lo cita lo Stato laico. Certo, ascolti la Bibbia dice che Dio non fa preferenza di persona, piaccia o non piaccia. Ma quella agli è una italiani. Famiglia di mafiosi. Famiglia di mafiosi, molto bene. Venite a vedere, parlate con loro. Ma a me me ne frega niente che sia. Ma che parlo con loro? Quelli sparano! Ma come fanno? Sparano quelli! Ma come fanno a fregargliene che sono mafiosi? Questo è stato condannato a 5 anni per associazione mafiosa, Don Giuseppe. Bravo, avete detto bene. Allora, se condanniamo questo che è stato condannato per associazione mafiosa, cosa facciamo con gli assassini, con i ladri? Beh, cosa che appunto, che ma che vuol dire? Ma che no, scusi. Cosa facciamo? Che vuol ma dire che insegnamento facciamo? È? Scusi no, per le pecorelle facciamo? Della sua. Scusi un attimo, che insegnamento. Non possiamo permettere i funerali per allora oh, signore. No, funerali sì. Nessuno. Ma che insegnamento è per come la sua comunità? Come non ha ucciso nessuno? Fa parte di un'associazione mafiosa? Come non ha ucciso nessuno? Allora, perché fa parte di un'associazione mafiosa, ha ucciso gente. Ma da dove tirate fuori queste teorie? Beh, scusi, un'associazione mafiosa non fa beneficenza. Di solito... Cioè, ma non è un'associazione che ammazza, è una persona che ammazza. No, scusi. E in Italia l'articolo 27 della Costituzione dice che la cosa è personale. Lei lo capirete. Lei conosce il clan barbaro? Lo conosce il clan barbaro? No, quello che conosco del clan barbaro è tutto quello che avete scritto voi giornalisti. Ah, perché è l'unica cosa che io conosco sull'Ndrangheta è quello che voi avete scritto. Anche i magistrati, anche quello che trovo. Anche i magistrati l'hanno scritto nelle sentenze. Il processo Minotauro. Tanti magistrati appartengono a questa mafia. Ma come appartengono ma alla che mafia? Dice? Sicuro. Ma perché? Non li accuserò mai perché non tocca a me, però penso che sia proprio così. Scusi, il clan barbaro è un clan tra i più pericolosi di tutta l'Italia, con ramificazioni in Nord Europa, in Italia, nelle grandi città. Don Giuseppe. Benissimo, io quello è una questione che deve li seguire la legge, lo Stato, i carabinieri, li giudici. Li condanni non lei. Non il prete. Li condanni. Il prete deve fare il prete. Li condanni dall'altare, dica l'Ndrangheta fa schifo, Don Giuseppe, lo dica. Lo deve dire. Voi che continuate a dire queste fesserie perché sono fesserie. L'Ndrangheta fa schifo, lo dica, lei lo deve dire. Dall'altare, lo deve dire. No, guardi, io non ho esperienza di Ndrangheta, non posso dire quello che non conosco, che non ho toccato con mano. Ma quello che so dell'Ndrangheta, ma è quello che dice. Barbaro. Che a Platino siete mai stati. Perché a Platino non c'è l'Ndrangheta a Platino? Non lo so. Ma come dove non lo so? Che dice? Io non l'ho sperimentata. Ma no, io calmiamoci un attimo, guardi qua. Allora, in grazia del Signore, scusi. Ma ti credo. Mafia. Ma per non forza, lei è un prete che non alza un dito. Per forza. Ma voi se siete impazziti e esauriti, parlate con un altro. Con me parlate se volete parlare. Calma. Ma lei è un prete che non alza una sola voce contro questi criminali. Per questo non le rompono i coglioni a lei. Guardi, chiedi la perpetua. Passi la perpetua. Che non conosco. Don Giuseppe, mi scusi. Lei deve dire che l'Ndrangheta fa schifo. Oh, me lo deve in dire generale. In maniera chiara. Guardi, lei non mi deve dire niente e io dico quello che ho voglia e quello in cui credo. La mia coscienza è mia. Ma è una vergogna questa cosa. Quel paese. No, lei è un prete. Lei è un prete, non può. Quale paese? Mi passi la perpetua. A quel paese, non a Platì però. In quel paese, ma non a Platì. In quel paese, ma non a Platì. Aspetta. Passi la perpetua lì, la donna di la signora. Pronto? Dov'è la perpetua? Pronto. Ma non fate... Ma dov'è la perpetua? Ragioniamo. Ragionate se volete. Venite qui a Platì. Col cavolo. Volete, parliamo. È inutile col cavolo. Scusi, che cos'è il clan? Lei conosce il clan Barbaro? Le ripeto per ennesima volta. Io non ho idea del clan Barbaro. Ma lei non sa un cazzo, fa il prete a Platino, non sa che cos'è il clan Barbaro. Adesso mi incazzo sul serio. Il clan Barbaro che domina. Lei non sa nulla. Io quello che so è quello che voi scrivete senza sapere tante volte. Ma la mafia esiste o no? La mafia esiste o no secondo lei? Certamente, meno male, parlano tutti sicuramente. Ah, perché ne parlano? Lei non ha Platì in due anni non ho sperimentato nessuna mafia. Te credo. È per forza. Gli fa i funerali, gli fa i matrimoni, gli fa quello, gli pulisce, gli fa qualunque cosa. Chi è quella che parla dietro adesso? Io ho pazienza di ascoltare. Ma io vado ai matti, guarda. State passando i limiti. Aspetti. Non ho la capacità di ragionare. Mi sono affatto. No, non sto gridando. Dovete gridare, andate in piazza e gridate. Aspetti. Potete venire quanto volete, vi accettiamo. Scusi. E parliamo se volete decentemente. Sì. Ma gridando così, gridatelo al vento. Scusi, Don Giuseppe. Non attacca quello. Stiamo calmi, Don Giuseppe. Allora, la situazione è molto semplice, Don Giuseppe. Qui c'è stato il funerale di un signore che lei nemmeno conosce, non sa che cosa ha fatto questo Giuseppe Barbaro. È stato condannato. Secondo lei è giusto che sia stato condannato o no? Non lo sa nemmeno. Non lo conosco. Io so che è stato condannato e che a luglio doveva finire il suo periodo nel carcere. Ho capito, invece secondo la legge è rimasto ancora dentro. Ci perdoni se esiste la legge dello Stato italiano che mette dentro i mafiosi. Ci perdoni. Va benissimo. Arrivederci e si vergogna anche un po'. Arrivederci. No, assolutamente. Bene. Statevi bene. Arrivederci. Arrivederci. Dio, che fatica, non ce la faccio, una fatica enorme. Che fatica. E anche a Platì ci vogliono più bene oggi. Tu dici. Beh, non so se la famiglia Barbaro, diciamo, apprezzerà di essere evocata. Ma chi se ne frega, sai che ti devo dire la verità? Ma certo. Me ne sbatto i coglioni della famiglia Barbaro, di Platì e dell'Andrangheta. Non me ne frega un cazzo, dico quello che mi pare, piglio per il culo chi voglio e questo prete si deve vergognare. La Zanzara. Ma con tutti i problemi che ci stanno in questo mondo di merda, in Siria c'è sta la guerra, i russi con gli americani fanno battaglie sulla carta o via internet per chi si deve aggiudicare il petrolio in Libia, di qua e di là. E noi che cosa ci preoccupiamo? Anzi, alcuni testa di minchia di che cosa si preoccupano? Di andare a mettersi davanti alle prostitute perché gli danno fastidio davanti al portone. Ma io dico una cosa, ma brutti testa di minchia, ma andate a fare in culo, teste di cazzo, lasciatele lavorare quelle ragazze che magari ci hanno bisogno se guadagnano un pezzo di pane, ma che fastidio vi danno, vergognatevi che una volta ci andavate pure voi a trombare. Vergognatevi, lasciateli lavorare. Il grande ritorno di Karma, Parenzo. Il grande ritorno del tuo amico Carmine. Lo sai che ti vuole bene? Sai che ti vuole bene, Carmine? Ma quando li vedi, li senti questi miserabili qua? Ma sai che ti vuole veramente bene, Carmine? Ma io mi mandano dei messaggi ogni tanto. Ti vuole veramente bene alla fine, Carmine? Ma io neanche un po'. Ma dovresti voler bene a Carmine, ti assicuro che è una bella persona. Ma non è una bella persona, come parla? Vabbè, che c'entra come parla? Non è che posso parlare tutti forbito, no? Ma io non voglio forbito, non è che c'è gente che parla forbito. Beh, sì, un po' dai, ti piace. Ma tutt'altro. Allora, più tardi, ragazzi, restate qui perché ne vedremo ancora veramente delle belle, caro Parenzo. Ne vedremo veramente delle belle. Più tardi. Più di così, però. Beh, ti assicuro, sì, dopo il prete, effettivamente è difficile. Più di così, cosa vuoi fare? Più dell'elogio dell'Andrangheta, che vuoi fare? Di più. Allora, difficile a un certo punto. Allora, Enrico Fratini, fra poco, verso le 20:15 circa, eccetera, ve lo presento in questo modo. Tu sai chi è questo signore? Non sai chi è questo signore? Fratini? No, un signore che colleziona carri funebri. Cioè, è un collezionista. È una delle persone più normali che è passato da qua. Carri funebri. Beh, ma non mi sembra una stramberia così. Carri funebri. Quando Enrico morirà, dove vorrà essere cambiato? Io ho quella bara anni 80, che è una bara matrimoniale, perché voglio star comodo. Qui era un agriturismo, è nato come agribordello, poi è passato agriturismo perché l'agribordello non era finanziabile. Adesso però io allestirò un appartamento funebre dove al posto dei letti ci saranno delle bare e sarà illuminata dalla camera ardente. Non so se il paradiso, il purgatorio e l'inferno è simile a quello di Dante o a quello che ci raccontano. Vorrei le prostitute in paradiso, ma credo che stiano in inferno. Prendere il tè alle 5 con San Pietro e San Paolo penso che sia una rottura di palle enorme. Per parlare di che cosa? Poi l'auto funebre, effettivamente io mi sento bene nell'auto funebre, fondamentalmente perché intanto vabbè è vuota, no? E quindi giro da solo con l'auto funebre, perché è difficile trovare un'altra persona che ci sale. Ma io in genere della donna che ho amo il suo posto vuoto accanto al mio, quindi va bene così. Va bene, andiamo direi a Lecco. Alessandro, vai. Alessandro, pronto? Vai. Dimmi. Pronto? Allora, io volevo dire questo, a riguardo di quell'idiota di prete che avete fatto parlare prima, che siccome non ascolta il prefetto, potrebbe perlomeno, e io non sono religioso, perlomeno ascoltare il Papa, visto che questo Papa che abbiamo è il primo che si è espresso chiaramente sulla mafia e ha detto che i mafiosi sono scomunicati, questa è la parola che ha usato lui, questo coglione di prete potrebbe almeno, se non dare retta al prefetto, almeno dare retta al Papa, almeno questo. E dunque? E dunque probabilmente se uno è scomunicato il funerale non glielo dovrebbe fare pubblico. Mm. Cioè tu ma dici che no, perché il Papa sì, una volta ha detto ha scomunicato, no? Ha scomunicato, esatto, in maniera pesante i mafiosi. Tra l'altro era pure in Calabria. Lui dice dunque non si può permettere quel prete di essere un minimo, non dico connivente, ma insomma di dimostrare vicinanza nei confronti della famiglia di un mafioso, questo è il punto. Se non ascolta il prefetto, almeno dovrebbe ascoltare il Papa. Marina da Roma, vai Marina, vai. Marina? Pronto? Vai Marina, dimmi. Cruciani, buonasera. Dimmi. Buonasera. Sì, però chiudi la radio, per favore. Chiudo la radio, va sì, bene. Sì, okay. Sarebbe meglio, sì, sì. Grazie. Sarebbe meglio, altrimenti alzo mi un po' la voce. Sì, mi dimmi. Senti. Dimmi mi Marina. Senti. Io ti stavo chiamando perché venerdì ho sentito la vostra trasmissione, ma ero in auto. Allora... E volevo dire una cosa. Dimmi una cosa. Si parlava del Pompino, si parlava di Madonna. Assolutamente, si parlava di quello. Dimmi, che cosa mi vuoi, esattamente, cosa mi vuoi raccontare? Io volevo dire che sì, io provo piacere e godo solo facendo un pompino al mio partner. Ma questo mi sembra ottimo, cioè questa mi sembra una cosa vera, giusta, corretta, e spero che tu lo dica sinceramente senza voler fare, no? Certo, assolutamente. Tu stai dicendo che rispetto alla teoria dell'amico Adinolfi, tra l'altro mi sono anche dimenticato di fare una piccola obiezione ad Adinolfi, no? Che era questa, molto semplice, cioè lui è anche un teorico della sottomissione, dunque in teoria la sottomissione non dovrebbe nemmeno stargli troppo antipatica come pratica, no? Cioè come atteggiamento della donna, senza di qualsiasi sottomissione si tratti. Comunque tu dici che godi quando fai un pompino, cioè quando fai la fellazio al tuo uomo, e non ti senti per nulla sottomessa, no? Assolutamente, anzi esattamente il contrario, perché altrimenti non godo. Beh, questo è buono però, questo è buono. Questo è buono, Parenzo. Cioè, nel senso, no, che dire, vuol dire, non grazie c'è di questa informazione. È un'informazione. Il suo fidanzato sarà contento di sentire la sua voce alla radio. Questo è interessante quello che dice Parenzo. Cioè, tu fai questa confessione, cioè di amare molto quando fai un pompino al tuo fidanzato, col consenso del tuo fidanzato? Oppure. Certo, col consenso ci mancherebbe. Cioè, è lì accanto a te, per esempio? No, purtroppo no. Sta ascoltando però... quello che stai dicendo? Spero sicuramente. Di sì, forse si spero di potrebbe... sì. Sì, tutta la sua famiglia sta ascoltando. Quindi... Tutta la sua famiglia. famiglia. Vedrà che a Natale, quando vi ritroverete a Natale, ci sarà uno zio, il famoso zio, che dirà: scusa, ma ho sentito una voce che mi sembrava la tua, è una cena di Natale, quando sarete tutti radunati. Che problema benissimo, c'è? Ma ha ragione. Facciamo un brindisi in più, scusa, no? Benissimo. Facciamo un... un brindisi in più, visto che stai parlando di Natale, faremo un brindisi in più. In che senso, scusa, il brindisi in più? No, perché è curioso. Che se lo c'è sa un famiglia, doppio o triplo senso, ecco, appunto. No, no. No. Che ne so, se lo sa amica tutta mia la famiglia, vuol dire che pure gli altri saranno contenti, mica è una cosa brutta, no? Però, vedi, Davide, cioè, tu sottovaluti molto la capacità da confessionale degli italiani. Cioè, non è che la sottovaluti, la conosci, perché si sono fatte, si sono costruite, no, sto parlando con Parenzo, intere trasmissioni intorno al, diciamo, al confessionale, intorno alla verità, certo, intorno ma infatti non mi, da no, una parte ma... mi stupisce, dall'altra parte mi lascia molto perplesso, perché però la signora Marina ci voleva dire, rispetto ad una discussione che c'è stata anche pubblica, se vogliamo, dopo la presa posizione di Adinolfi, che in questo gesto, adesso uno può anche smettere di chiamarlo come l'abbiamo chiamato per non ripeterlo 100 volte, in questo gesto, per esempio, prima un signore mi ha scritto dicendo: io ho un bambino di 5 anni in macchina, che mi ha chiesto a un certo punto: papà, che cosa vuol dire la parola pompino? Ma me l'ha detto ridendo, non è che me l'ha detto criticandomi, no? Un professionista, un avvocato che mi ha chiamato, e io gli ho detto: guarda, puoi tranquillamente spiegare a tuo figlio, come lo spiegherei io se mi trovassi nella stessa situazione, se me lo chiedesse, che pratica sessuale tra un uomo e una donna, punto e basta, una spiegazione molto semplice, pratica sessuale tra uomo e donna, che non prevede parte attiva, parte passiva. Al limite, Marina, giusto, tu pensi di avere, quando fai quella cosa al tuo ragazzo, pensi di avere in mano la situazione, cioè pensi che ce l'hai in pugno oppure no? Cioè, la cosa contraria di quello che ha detto il maestro Adinolfi la settimana scorsa. Esattamente. Dimmelo, la senti, no? Questo senti di avere potere, sì o no? In quel momento, certo, sì. Ah, sì, ma che ne so, me lo devi di te, però, se stai zitta e non parli, sì. No, pensi... no, è vero, certo, sento di avere il potere e faccio quello che più mi piace. Ma quanti anni hai, scusami, Marina? 53. Beh, è buona questa cosa, Parenzo, queste confessioni a tarda, no, io non dico a tarda età, insomma, di una 53enne. Non... no, tarda età no, perché io sono quasi tuo coetaneo, figuriamoci. Ciao Marina, ciao. Oliver, Roma, Oliver, signor Oliver. A tutte le donne piace fare il pompino. Ma sì, Oliver, tra l'altro. Ma no, ma è corretto, ma non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Infatti, la discussione doveva finire venerdì, ragazzi. Io ho ricevuto 200 milioni di messaggi su questa cosa qua. Sono tutti uguali i vostri messaggi. Dunque, cambiate argomento, cambiate tono, fate venire un'idea più originale, perché non li posso mettere in onda. È ridicolo, è un pezzo di Italia che parla, per carità. Però sono tutti uguali. Certo, è un pezzo di Italia che parla, non c'è dubbio. Un pezzo di Italia che parla, che dice però la stessa cosa: che l'idea di Adinolfi è una follia. Ci sono poche persone che condividono quell'idea di Adinolfi. Diciamola tutta, dai, Oliver. Di che mi vuoi parlare? Poi, sì, del di Martina, quella ragazza che è stata scassata dal ristorante. Pure questa cosa è buffa, in rete tutti i commenti, vergogna, del ristoratore. Io ho un pub, prendo solo ragazze belle, perché è un valore aggiunto. Vabbè, un pub però è una cosa particolare, beh, certo, chiaro, A parte che io ho visto nei pub negli anni anche ragazze non particolarmente belle, no? Al pub la gente non gliene frega un cazzo. Dipende dal tipo di locali, dai, da dove sono quei locali, da che tipo di clientela hanno, eccetera, eccetera. Dipende da tante cose. Cioè, dov'è che lo gestisci sto pub, Oliver? A Roma. A Roma, sì, questo l'ho capito, perché sei di Roma. Vengono molti ragazzi solo perché ci sono belle ragazze. E vabbè, questo, hai fatto una scelta, è legittima la tua scelta, cioè tu hai deciso di mettere come commesse, hai deciso di mettere come lavoratrici delle persone belle perché pensi che ti possa attirare dalla clientela. Io conosco dei posti dove ci sono persone, diciamo, normali, ragazze normali, né belle né brutte, normalissime, che servono ai tavoli, non è che cambia molto, cioè non è che l'unico motivo di successo è quella roba lì, cioè, ciao Oliver, ciao. Cruciani, tu sei uno stronzo, sei fastidioso, sei spocchioso, sei strafottente, ma io ti amo. La Zanzara. Ma quanto siete coglioni, oh. Porca puttana, oh. Ma non vi rendete conto che la metà della popolazione è con questo qua, è con questo ferrone qua? Non vi rendete conto? Siete voi che avete rovinato l'Italia, coglioni! Viva Ferrone, viva! Viva, viva, viva Ferrone, viva per i miei figli, viva, merde! Che non abbiamo i 100.000 euro all'anno come avete voi, coglioni! Viva Ferrone, tutta la vita! Ma glielo dice qualcuno a quel coglione di Lemme che tutti i medici sani di mente lo vorrebbero prendere a calci in culo? Bene, sono appena sceso dall'autobus 18 a Torino, pieno di ciabattanti, ovviamente nessuno senza biglietto. Ora sono sceso a Porta Palazzo, quasi stato islamico. E niente, gli unici italiani che vedo sono quelli sotto il ponte che si bucano. Questa è l'Italia che vuole Parenzo, bravo, bravo. Librandi, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Che non lavora nessuno, non si trova lavoro, ma che cazzo stai dicendo? Parenzo, a forza di denunciare a destra e a manca, fai la fortuna degli avvocati, sei il numero uno. Altro che il traffico, qua si serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena, l'erba buena. La Zanzara. Ragazzi, a grande richiesta, a grandissima richiesta direi, lo scontro memorabile Gianfranco Librandi, deputato della FU sciolta civica, Donato da Varese. Dimmi, la voglio prendere lenta. Prendi la lenta. E non male che adesso io mi trovo una persona che ogni volta che vuole poco trovo in televisione, vorrei stare lì per prenderlo, non dico proprio prenderlo e sputargli in faccia. Proprio sputargli in faccia. Un intelligentone, sai. Questo miserabile soggetto che avvelena gli italiani ogni sera per colpa di come c'è. Questo idiota mi prende responsabile, denuncia pure che io sono conduttore, guarda e denuncia. Ascolta un po', idiota, ma tu lo sai l'Italia calma. Questo idiota l'ha mai portata al sud, che ci sono milioni l'Italia di italiani? Come stai zitto, cretino! Prima. Stai zitto, cretino! Assassino! Ma come? Tu con le tue ideologie stai distruggendo gli italiani. Allora, il meridione sta morendo di fame. Certo. Porco figlio di puttana! Che sta morendo di fame! Ma che c'entra? Ma perché il lo... popolo italiano? Ma perché sta lo devi insultare? Di fame. Ma che c'entra? Ma perché ci lo... sono state più di 10.000 italiani uccisi dagli stranieri in questi ultimi 15 anni? Miserabile! Ma perché? Ma perché? Denunciami. Allora, questo è un soggetto. Ma bisogna... che ha fatto? Perché lo devi insultare così? Che ha fatto? Perché è un distruttore. Perché lui insulta gli italiani con la sua presenza. Questo qui non sa il pericolo dove sta. Questo qui dovrebbe essere violentato da quattro africani. No, vabbè, allora, Donato, non si può sopportare questo storpio. Via questo storpio mentale. Chi è lo storpio mentale? Di parlare all'assassino Renzi, di chiudere quello scempio che c'è lì in Canale di Sicilia, che sta facendo arrivare solo sunniti. Lo sa che l'Islam sta crescendo ogni giorno. Lo ma sa che Renzi fa solo politica a favore non dell'Islam. Sa niente. L'Islam sta diminuendo contro i cristiani cattolici. Ma vai stai a cagare, Cristo. Vai. Ogni due minuti viene ucciso un cristiano. Cretino. No, tu sai a favore degli italiani. La conosci ancora? La parola italiana lui, la conosci? Ma lui pensa di essere a favore dell'Italia. Italia. Tu sei un italiano, figlio di puttana. No, ma perché? Allora, no, perché la mamma fa la tocca. Lo sapevo bene. Librandi è sconnesso dal mondo. Ma perché pensi che stia tradendo l'Italia? Ma così? Librandi è un mentecatto. Ma così alimenti la violenza? È un mentecatto con gli occhiali che lo fanno parlare. Vabbè. È un povero mentecatto. Gianfranco, cerca di tu che fai il politico, cerca di convincere questo signore che sta. Guarda, se mi fai parlare con lui, ma. È di Varese poi, delle parti tue questo signore. Non c'è problema, mi incontro con lui e cerchiamo di avere un dialogo. Perché è di Saronno Librandi, capito? Tu sei di Varese, non è distante. Allora, come? No, sono di Saronno. Io voglio gli uomini. Io in televisione voglio gli uomini. Gli senta uomini. Gli uomini con i coltelli d'acciaio. No, queste lu dementi. Senta, comunque si tranquillizzi un attimo, perché i cristiani, i cattolici sono sempre di più rispetto agli islamici. Uomo di merda, ma tu veramente penseresti che se l'Europa avesse anche un problema economico, vabbè, l'Egitto ci accudirebbe con le navi da militare. È difficile per accudire migliaia e centinaia di cristiani che avrebbero fatti però saltare a cannonata. Uomo di merda. Beh, direi, caro Parenzo, sono vette irraggiungibili, diciamo la verità, sono vette irraggiungibili in tutti i sensi, in tutti i sensi. Allora, abbiamo con noi un signore, un signore, non so quanto la sua storia sia conosciuta, ma non mi importa, sono curioso di capire come mai colleziona carri funebri. Carri funebri, Parenzo, carri funebri, cioè praticamente ha 11 carri funebri, il più vecchio del 1954, non capisco che piacere ci sia a collezionare carri funebri. Tu lo riconosci i carri funebri, Parenzo, no? Quelli che li sono conosco, nelle città. Certamente, non ci ho mai viaggiato per ora, ma li conosco. Signor Fratini? Eccoci. Buonasera, buonasera. Salve, buonasera. Che hai, l'auricolare, lei, viva voce? No, no, non c'ho auricolare. Benissimo. Noi stavo uscendo... Ho detto già prima che stavo accompagnando una mia amica per fare la spesa col carro funebre. Bisogna anche fare questo. Col e carro... sto fermo davanti al cimitero di Terni, che mi sembra il posto più illuminato, perché le città italiane come illuminazione fanno schifo. Quindi il cimitero mi sembra il posto, tra l'altro, più tranquillo, perché ci sono troppi rumori. Sì. E adatto a questo tipo di intervista. E quindi sento il traffico. Cioè, lei è davanti al cimitero? In sì, questo momento il cimitero perché è chiuso. Ma perché le piacciono così tanto i cimiteri? Ma perché, a parte il fatto che adesso in questo mondo di vivi apparenti, secondo me, io vedo delle facce. Vedo molto negativo. No, vedo delle facce sorridenti solamente al cimitero, se i parenti sono così bravi di non mettere i defunti proprio nel momento. Cioè, le facce più sorridenti sono quelle, sono le piccole immagini che ci sono ai cimiteri. Sì, diciamo, no? sì. Ecco, sì. Ma come, Parenzo, come può venire in mente a un signore di collezionare dei carri funebri? È curiosa anche questa cosa. Può venire in mente molto semplicemente avendo un problema mentale. Cioè, ci sono alcune persone che hanno dei problemi mentali, alcuni ad esempio sono maniaci del sesso, altri sono maniaci della masturbazione nel particolar modo del sesso, altri sono semplicemente pazzi, hanno delle crisi isteriche, altri ancora, altri cioè, minoranze. Tu dici che quel signore Enrico Fratini, Terni, eccetera, ha un piccolo problema mentale, tu dici, uno non ti verrebbe in mente di collezionare. Sbagli nel definirlo piccolo, secondo me. Nel definirlo piccolo circoscrivi. Ma perché? E limiti la malattia mentale che invece io credo sia significativo. Imperante. Ecco, ma consideri questa cosa, Enrico, consideri questa cosa una deviazione, come dice Parenzo, cioè una deviazione. Ma potrebbe essere anche la deviazione. Intanto vorrei sapere qual è la sua definizione della pazzia. No, ma lui dice la deviazione mentale, c'è qualche turba, credo Parenzo si riferisca a questo. Ma no? Le turbe, anche se non noi non ce l'avessimo dal momento del concepimento, credo che in questa situazione attuale penso che le turbe ce le mettono. Ho capito, amico mio, tu è una vita che fai collezione dei carri funebri, però non è che la crisi prima. Fondamentalmente. non è questione di crisi, è questione di una turba mentale generalizzata. Allora, no, ma tu perché collezioni carri funebri? Io colleziono auto funebri. Perché? La differenza tra il carro funebre e la Ma lasci sopra le cose, da sola la differenza? Ma tu lasci sopra la croce? Assolutamente sì. Cioè tu vai in giro per le città come se nulla fosse? Assolutamente sì. Con la macchina, perché con l'auto funebre. Io non ho catenine al collo, non ho braccialetti, ho solo un orologio che purtroppo mi scandisce il tempo. Perché purtroppo, scusa? Purtroppo sì, perché noi perdiamo la nostra libertà di quando eravamo adolescenti nel momento in cui qualcuno ci scandisce il tempo. Ma tu hai sognato qualche volta il tuo funerale? Io l'ho sognato per anni. Hai sognato per anni? Anche questo, Parenzo, è da sentire attentamente, no? Cioè, per anni ha sognato questo signore il suo funerale. Come l'hai immaginato il tuo funerale? Io l'ho immaginato... Ma noi infatti immaginiamo un funerale. Noi abbiamo tutta una costruzione mentale sbagliata, perché partiamo da... No, da ma tu perché ti sei immaginato il funerale? Spiegami. Io mi sono immaginato il funerale, ma il sogno... Noi non sappiamo se il sogno è un appagamento del... Cioè, Freud ci ha studiato tutta una vita, alla fine è uscito fuori che il sogno potrebbe essere l'appagamento di un desiderio, oppure era semplicemente per vedere le facce. Ma tu come la usi? Anche per andare a fare la spesa prendi assolutamente questo? Assolutamente sì. Prendi un carro funebre per fare la spesa? Sì, perché c'ho oltre 3 quintali di carico, quindi il fatto che ci sia la croce quello sopra... però, scusa, quella croce sopra che fa? Ti avvantaggia? Che fa la gente? No, non mi avvantaggia. Io ho tanti amici che portano delle croci pesantissime al collo e nessuno gliele contesta. Ma ho capito, però, cioè, Davide, scusa, ma tu come vai a fare la spesa al momento? A piedi, no? Cioè, non è che vai col carro funebre. Io non sarei vai col per carro mobilitare funebre. Tutte le strutture sanitarie disponibili in zona, perché la situazione mi pare piuttosto grave. Non violenta, cioè la persona è chiaramente non è violenta, è una brava persona. Sai, uno che va a fare la spesa col carro funebre, amico mio, come lo vorresti definire tu? Io non ho... sono anche molto calmo, paziente, vedi, non è che mi posso alberare. Come fai ad arrabbiarti con uno così? Lo abbracci, no? Ma non vado a fare la spesa con la salma. Beh, no, ma quello ci mancherebbe altro. Non vado a fare la spesa con la salma. No, certo. Senta, lei come si è... Magari c'è una suocera, la porta dentro e dà un passaggio volentieri, però, no? No, dico, no, se lei ha una suocera. Ma io non sono sposato perché... Lei ha mai... Beh, questo non è una cosa strana. Il matrimonio è il vero funerale delle persone, no? Il matrimonio è il vero funerale, dici tu, Sì. Senti, ma tu hai quelle macchine lì così spaziose, quei carri funebri che utilizzi per fare la spesa, immagino anche per fare altre cose, cioè li utilizzi anche per fare del sesso, per carità, per esempio? Allora, ma questo si potrebbe fare, ma noi abbiamo 1000 posti per fare il sesso, quindi non c'ho avuto l'esigenza di farlo. Sì, certo, non c'è dubbio. Ma tua figlia, tu hai figli? Hai figli? Sì, appunto la madre di mia figlia, Olimpia, che ha 26 anni, sì, è una pittrice iperrealista surrealista. Beh, d'altra parte, non poteva essere diversamente? Come? Non poteva essere diversamente, dico. Sì, sì, sì, credo proprio di sì. E quindi lei ha avuto un grande successo adesso, fortunatamente. Ma quanto costa un'auto funebre? Ma l'auto funebre, allora, ci sono tre linee di pensiero. No, ma allora, tre linee di pensiero, dice... di mercato saranno di pensiero, cioè quanto di costa pensiero, il massimo? Sì, di mercato, ma il mercato non esiste, il mercato lo fa il mercante, quindi se il mercante non esiste, esistono le linee di pensiero. Allora, ma cosa ci trovi di bello? Ma di bello intanto perché queste auto funebri hanno comunque fatto la storia, fanno parte della storia della nostra civiltà, dei nostri paesi. Ma sì, la storia dei funerali, comunque vabbè. Ma noi però, i ricordi da bambino, tra i ricordi da bambino... Ma tu il tuo funerale, come lo sogni? Che cosa ci deve essere? Ma io il funerale me lo sono sempre sognato, un funerale sexy, e ho scelto sempre le ragazze belle... Sempre preferito ma quello d'accordo, amico mio, ma insomma, quanto hai speso per queste macchine in tutto, queste 11 macchine? Adesso quantificare, ma più che altro è la spesa che io vado ad affrontare nel restaurare queste quanto macchine. Spendi? Ma il restauro può andare da un minimo di 5.000 euro fino a 30.000 euro. Vabbè, ma robetta, Parenzo, alla fine sono ragazzi questi qua, sono ragazzi. Comunque 11 carri funebri, amici miei. Ciao Enrico, ciao, buona serata, presto, ciao. Trovatevi un lavoro, cazzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luciani, oggi è stato il mio compleanno e come regalo ho chiesto alla mia ragazza di fare sesso in macchina con la zanzara a palla. Non ho mai goduto così tanto. Mai. Non scordatevi il numero del cuore. 393-71-71-701. Ancora una volta, caro Parenzo, l'M Show dalla D'Urso. Però c'è anche un'applicazione che si può dimagrire usando la mia applicazione a solo 87 euro. Adesso basta che ti costi un milione di euro. Basta che ti costi un milione di euro. Ti sto regalando tutto, regalo tutto al mondo. Ed è solo l'inizio. Che rivoluzione abbia inizio. Italiani! Italiani! Capito? Italiani! Anche quello non è tutto, non c'è tutto l'MLM. Beh, lui ci fa però, Più che altro ci fa, dai. Andate a farvi tagliare la pelle da lui a 20.000 euro a botte. 20.000 euro a botte, andate a farvi tagliare la pelle. Sei geloso? No, allora, sono più ricco di te. Sono più ricco di te. Ma il mio obiettivo non è la ricchezza, è aiutare la gente. Sei tu che sei un imbroglione. L'hai capito qual è il problema? Sì, ma un imbroglione è ricco. L'obiettivo di un medico non è la ricchezza. Ma non sono medico. Appunto, sei un imbroglione. Sono farmacista. Sei un imbroglione. Sono farmacista. Questo era un chirurgo plastico, Lorenzetti, capito, che gli diceva sei un imbroglione. Sì, sì, sì. Beh, una guerra tra giganti. Tra titani proprio. Ci sono delle prove scientifiche in tutto il mondo che dicono che questo fa male, non fa bene. Dice fesserie, sciocchezze, la prova scientifica è qua. Ah, sì. È qua. Famoso test universitario. Esatto. Che verrà adottato. Famoso giornalista delle patate all'estero. Verrà adottato. Questo farà un grande furore. Se lei è capace di leggere, lo legga e poi ne discutiamo. No, non ho grande tempo, testa guardi, di così così. Non mi serve. Io non capisco se questi scontri di Lemme con prima con Cecchi Paone, anzi prima con questo chirurgo plastico e poi con Cecchi Paone, poi con qualche cicciona, non riesco a capire se questi scontri sono scontri veri. Sì. Cioè è tutto inventato, non lo no, so. No, cioè... è vero, sono davvero così, Lemme Lemme mi pare veramente così, insomma, no. Ci non fai, so, ci è. Il denaro non può comprare la felicità, ma con il denaro è possibile acquistare uno yacht con le puttane. E non ho mai visto nessuno essere triste su uno yacht con le puttane. Sai di chi era questa frase? No. Dopo te lo dirò. Ripeto, il denaro non può comprare la felicità, ma con il denaro è possibile acquistare uno yacht con le puttane. E non ho mai visto nessuno essere triste su uno yacht con le puttane. Voglio sentire il primo che chiama, eh? Il primo che chiama che lo indovina, il primo. Parla ancora Lemme. Sono il sex symbol delle ciccione. Senti. Sono Che Guevara abruzzese. Oltre ad essere il sex symbol delle ciccione, penso un po'. Purtroppo solo ciccione, quello è il guaio mio. Secondo lei c'è un po' di problemi. E intanto la signorina Celentano dice che usa la carrozzina del cane alla stazione centrale di Milano perché ha paura che i cani vengano investiti dai trolley. Siamo alla follia pura. Io sono la prima che ha il golfino per il cane e, come ho detto una volta, ho la carrozzina, ma la uso quando vado in posti come la stazione centrale, perché sono state spezzate zampe ai cani con i trolley e la gente che corre per pigliare il treno. Io ne ho due cani con i guinzali, diventa difficoltoso. Allora, per far stare proprio tranquilli i cani, oppure la carrozzina va usata con un cane disabile, come potrebbe essere Jean-Pierre, non per andare in giro col carrozzino con dentro i cani con i fiocchi. A parte che c'è questa distinzione razzista, giusto, giusto. Questa distinzione razzista tra chi va col passeggino, coi cani, con i fiocchi. Beh, certo, che non capisco perché lei giustamente fa notare non che è innaturale. Non è mai successo che alla stazione centrale o nelle stazioni un cane venisse investito. Beh, no, da uno coi trolley. Può non succedere è mai che vengano accaduto. Falciati, ma specie quelli piccoli. C'ha ragione. Ma perché ragione bisogna trattare questo i cani comunque, come i figli? Perché se un cane. Beh, perché una ma ferita. Dai, ma su. Una ferita di un cane è una ferita, comunque soffre. Se viene falciato dai trolley, ma comunque il cagnolino gli fa male, ma quando quella mai? Gente è di corsa eccetera e quindi lo strattona, lo tira eccetera, e magari scende dal treno di corsa su. E gli fa male, non mi sembra nulla di grave. Vincenzo, diciamo. Da Latina, vai Vincenzo. Ma io Vincenzo. Ci provo un po' a parlare perché sono veramente costernato per la violenza che avete usato contro dileggiando quel bravissimo sacerdote che tutto merito della propria coscienza, della sua coscienza, aver celebrato i funerali. Perché Gesù non ha condannato l'andrangheta. Non ha condannato Gesù, l'andrangheta, e dice anche che i magistrati sono mafiosi. Ha detto Gesù condanna sì. Giuseppe gli Maria, atti, non la persona. Io dico voi che chiamarvi sbargiasti, fanfaroni, sarebbe farvi un complimento perché siete dei prostituti. Che voi immorali. Che siamo? Aspetta, che stavi, prostituti morali, stavi bevendo. Immorali. Che stai, prostituti immorali, sì. Chi vende il proprio corpo è una semplice prostituta, un semplice prostituto. Chi vende, come voi giornalisti e altri in gran parte fanno, scrivono e parlano come vuole il loro padrone, siete dei prostituti immorali. La tua sigla, scrivetela tutti. Come rubare una coscienza indipendente amplificando nichilismo istituzionale. Ma questo è matto. Come rubare una coscienza indipendente amplificando nichilismo istituzionale. Queste sono le tue iniziali, Cruciani. Scrivi e leggitele. Ma tu devi essere ricoverato. Ma tu vai ricoverato immediatamente. Scrivi e leggitele. Ma tu vai ricoverato. Tu carissimo, stai facendo di tutto per portare l'Italia nelle mani degli non nelle mani. Di chi? Nel volere. Nelle mani di chi? Nell'ottenere, a parte che tu non sai niente, sei molto poco di donne, e tu almeno sai, ma fai finta di non sapere quello che dice il codice penale sulla mafia. Voi di Radio 24, quelli di Radio Popolare, qualora commettessero non dei sta reati, bene questo, no, la vostra malato. Potenza che diramata sul territorio talmente forte, qualora più no, di uno di voi ha preso proprio gli è partita la tangente, reati, dai. Voi sareste conformemente all'articolo del codice penale raffigurabile come organizzazione mafiosa. Ah, beh, noi come organizzazione mafiosa. Beh, certo. Nel momento della vostra potenza, questo dice l'articolo. Sì, ma l'articolo di cosa? Ma quale articolo? Di che stai parlando? L'articolo 416 bis che tu conosci bene. Ma quale 416 bis? Ce l'hai in testa del bis? Ce l'hai. Di non saperlo. Ma ce l'hai nel cervello il bis. Quello che sta accadendo che il sogno degli assassini di Aldo Moro verrà realizzato. Vabbè, dai, con la deforma Renzi, con la revisione radicale della Costituzione. Passiamo al volume. Allora, caro Parenzo, siamo in collegamento con una signorina che assomiglia molto fisicamente alla professoressa Boschi, la signora Boschi, ma non è la Boschi, però assomiglia, ministro Boschi, sì. È una giovanissima attrice che si chiama Saulino di cognome, Paola di nome, la quale ha preso spunto anche un po' per esibizionismo, diciamo la verità, da questa proposta madoniana, da questa proposta di Madonna di premiare chi vota la Clinton, di premiare chi vota la Clinton, per dire guardate cari italiani, se voi votate no al referendum, se voi votate no al referendum, io vi farò un pompino. E ti posso assicurare che questa attrice italiana, che è stata in America fino a qualche giorno fa, ci siamo sentiti, era a Los Angeles, attrice, diciamo, ha l'ambizione di fare l'attrice. Adesso questa signorina credo che voglia fare sul serio, credo voglia fare sul serio, perché se non vuole fare sul serio allora mi incazzo. Paola, come stai? Ciao Cruciani, ecco. Ciao, mannaggia Paola, a te che mi chiami a Los Angeles alle 9 di mattina dopo che mi ero mezza ubriacata. Ma e come poi mezza mi ubriacata? E poi non mi hai richiamato più e ho dormito direttamente dopo le 11 di mattina. E non ti ho richiamato, ma come eri ubriacata? Ti eri ubriacata di che cosa? Scusami. Che serata avevi fatto? Una serata di alcolica? Una serata d'amore, l'unico linguaggio che parlo, caro Crux Crucis. D'accordo, la serata d'amore siamo d'accordo. Avete, c'è anche un'intimità, vedo da no, come non c'è si nessuna intimità, ci siamo sentiti una volta. Serata di come ti ubriachi con l'alcol, che ne so io come ti ubriachi. Sto scorrendo le foto della signora, assomiglia un po' alla Boschi o no, signora Paola Saulino? Sì, dobbiamo. Ma questa è una cosa che mi dicono, sì, è vero. Scusa, ma domanderebbe Parenzo, signora Saulino, lei che cazzo fa nella foto vita? Patriottica? Mi fa proprio piacere essere chiamata signora Saulino. Ecco, signora Saulino, c'è una foto patriottica tra quelle che individuo. Quale sarebbe la foto patriottica? Ma con diciamo, sostenevo gli europei, la mia nazionale, sì, la mia Italia. Tu sei napoletana anche, no? Sei anche io sono napoletana, la foto patriottica. Cioè. Sei anche tifosa del Napoli, cara Paola? No. Supporto il Napoli da sempre, per sempre, forza Napoli. Beh, ci sono foto con oggettistica, insomma, mi pare molto varia l'attività della signora. Sì, però adesso la domanda sorge spontanea. Tu nella vita, quanti anni hai innanzitutto, Paola? 25, 26, quanti sì. anni hai? 25. Sì. Tu nella vita, domanderebbe Parenzo, che stracazzo fai? No. Ma io nella vita non faccio un cazzo, ma lo faccio benissimo. Beh, infatti lo faccio con arte, perché ci vuole arte. Sei anche mantenuta, diciamo, tu sei appassionata di arte contemporanea, cioè, sei anche mantenuta di famiglia, cioè c'è qualcuno che ti sostiene? Assolutamente no, la mia famiglia. E come fai a campare? Fai le marchette? Cosa fai? Ti fai sovvenzionare da qualcuno? Ogni giorno come fai a tirare fuori i quattrini? Cioè, chi te li dà? E fammi parlare, non ti incazzare. Fammi parlare, non parlare sempre tu. No. Allora, io a Los Angeles soprattutto lavoro, quindi ho i miei soldini che metto da parte. Sì, ma quali lavoro? Uno può dire lavoro. Quali io lavoro in un locale. Però vuoi fare l'attrice, diciamo, non fai l'attrice, diciamo la verità, non fai l'attrice ancora. Non guadagno così tanto facendo l'attrice. Cioè l'ultima cosa che hai fatto da attrice, qual è stata? Ho lavorato a Los Angeles, ho fatto un film sulla storia di Frank Sinatra e Eva Gardner, io facevo il ruolo di un'attrice italiana degli anni 50. Cioè hai fatto la comparsa in pratica? Non era una comparsa. Ma non c'è niente di male? Avevo un ruolo e parlavo anche. Come si chiama sto film? Si chiama Frank and Ada, lo puoi trovare su IMDb, del è famosissimo. Ma Valenza, non pigliare per il culo, no, 20, no. A 25 anni sta iniziando, sta iniziando a fare l'attrice. Senti, ma è vero che vuoi fare, scusa, tu hai scritto, applichiamo la cosa della, di Madonna all'Italia, sì. Torniamo sì. ai pompini di casa vuoi nostra. Vuoi sorvolare l'attività perché ti ho no, superato voglio... con questa cosa dell'attrice, ti ho dimostrato che sono attiva. No, quindi figurati. Vuoi cambiare argomento? No, torniamo ai pompini di casa nostra. Questo torniamo lo dico io. Ai pompini di casa nostra, questi sono argomenti molto decisamente più interessanti. Allora, circa il referendum che ci sarà in Italia, no? Tu praticamente che cosa vuoi fare? Spiegalo chiaramente agli italiani che sono in ascolto. Ma noi... posso dire, perché mi hanno fatto un'intervista radiofonica oggi, prima di parlare mi hanno detto fascia protetta, mi sono messa ma paura. Ma che ce frega, vai, fai quello che ti pare, da noi puoi fare quello che vuoi. No, io ho promesso a chi sostiene il no pompini per tutti. Ma ho capito, ma questa è una roba che dici così sì. o lo vuoi fare sul serio? Perché Parenzo giustamente direbbe, vabbè, è la solita esibizionista. Sì, no? Beh, certo. Allora, ma io ho postato. Vabbè, lascia perdere quello che hai postato, lo vuoi fare sul serio questa roba o no? Penso proprio di sì, se uno ti porta la certificato, una fotografia con la scheda elettorale in cui c'è scritto ho votato o no, la prova provata, tu che fai? Sì, ogni promessa è debito, si mantiene. Ma ovviamente. Non credo, dai, non credo che fare così. Allora, facciamo una cosa, io ho specificato come voglio agire io. Cioè, come vuoi agire? Pronto. Vai, come vuoi agire, dimmi. Siccome sarò a Los Angeles, premierò l'arte, siccome la mia è una proposta artistica, viva l'arte, viva l'amore, sì. Avevo pensato di premiare l'artisticità di chi mi veniva a trovare sino a Los Angeles, affrontando un volo intercontinentale, riuscendomi a trovare, e lì... Cioè, secondo te uno... Ma guardarsi che si trova in viaggio, che ne so, io dovrebbe venire in Italia per referendum, non vengo, dovrebbe cioè. Fare dovrebbe un viaggio contattarla a... come via me esatto. Dovrebbe fare un viaggio a Los Angeles, provare portare le prove che ha votato no, che fa? Trovarti così bella. E tutto questo ma per no, far... senza prove e tutto prove, questo per farci fare un pompino da te. No, Crucià, mi devi stare a sentire però. Ma scusa. Lo so che lo vuoi anche tu il pompino. No, non lo voglio. Francamente no, non lo allora, voglio. Allora, ascoltami, veramente le prove non si possono avere per il semplice fatto cioè, che uno, è legale. Cioè, se tu incontri un italiano fare. Dopo il referendum a Los Angeles e gli fai un pompino, questa è la realtà. Penso proprio di sì, perché è lì che mi ritroverò. Ma ragazzi, non è possibile, dai. Tu hai non scritto posso pratichi, venire in Italia. Pratichi, praticare una dovuta maestria portando a compimento il mio dovere fino alla fine, senza perdermi esatto. neanche una vostra... Per avere il contatto visivo, Crux Crucis. Parenzo, tu cioè, guardando negli occhi, naturalmente, come Madonna. Sì, perché le cose vanno fatte bene, insomma. Ma Parenzo, io ho dei dubbi, mi Parenzo, su questa cosa tutto... qua. Ma tu devi dubitare, è normale, il tuo no, lavoro, ma devi fare capito. Questo, stai in radio, devi... No, buttare... ma sesso orale a chi vota no, ma è troppo facile dirlo, Parenzo, da Los Angeles, no? È anche troppo semplice. Io che ci posso fare? Io vivo lì, il mio fidanzato è lì, cioè sto là, quindi c'è pure non il fidanzato. È che... C'è pure il fidanzato, vabbè ragazzi, ma che sta a fare? È pure esibizionismo, dai, cioè... È veramente... Ma non è pure esibizionismo, è pure esibizionismo. Ma che me ne frega che hai postato? È pure esibizionista. Anche tu sei un esibizionista, altrimenti non faresti questo lavoro. Ma non quindi... sia che io non sono esibizionista, raccolgo sì, le tracce di esibizionismo. Ho visto le tue fotografie che non ti conoscevo. Ma che c'entra? Che c'entra? Bella faccina che sembri scemo, però puoi fare la parte della persona. E poi, ma tu dal male che mi devo fare pigliare per il culo, secondo te? Va bene Paola, ti saluto, ciao, ti abbraccio, ciao tesoro, dai. Ciao tesoro, ciao. Dai. E ti devo lasciare, è tardi, Parenzo, diglielo tu che è tardi. Cara, è finito, si è finito, tutto, è tutto finito. Festa. Maurizio, Anna, Alfredo, Luca, Giancarlo, non vi preoccupate, ci sentiamo domani, ciao. Salve, buonasera, era a casa di cura Villa Serena? Ah no, era Zanzara. Ah vabbè, fa lo stesso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.